Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Si trascinarono così verso casa. Le signore erano sul cancello del giardino, aspettando che tornassero per la colazione. La zia Zittella apparve, sorrise e fece loro cenno di camminare più in fretta. Era evidente che non sapeva nulla della sciagura, infelice. A volte l'ignoranza è davvero una benedizione del cielo. Essi intanto si avvicinavano sempre di più. «Guardate il vecchietto, gli è successo qualcosa!» disse Isabel Wardle. La zia Zittella non capì l'allusione. La credette riferita a Mr. Pickwick. Ai suoi occhi, Tracy Tupman era un giovanotto. Vedeva gli anni di lui attraverso un cannocchiale rovesciato. «Non vi spaventate!» disse il vecchio padrone di casa, temendo che le figlie si impressionassero. La piccola comitiva si era tanto accalcata intorno a Mr. Tupman che non era ancora possibile valutare chiaramente l'entità della ferita. «Non vi spaventate!» ripeté il padrone di casa. «Che cosa è successo?» strillarono le signore. «Mr. Tupman ha avuto un piccolo incidente, tutto qui!» La zia Zittella emise uno strillo perforante, scoppiò in una risata isterica e cadde all'indietro fra le braccia delle nipoti. «Buttatele addosso un po' d'acqua fredda!» disse il vecchio signore. «No, no!» mormorò la zia Zittella. «Sto meglio adesso! Bella! Emily! Un chirurgo! È ferito, è morto e...» E qui la Zittella ebbe la crisi numero due di risa isteriche, rotte qua e là dagli strilli. «Calmatevi!» disse Mr. Tupman, commosso fin quasi alle lacrime da queste espressioni di simpatia per le sue sofferenze. «Cara, cara signora, calmatevi!» «E la sua voce?» esclamò la zia Zittella, e forti sintomi di una crisi numero tre si svilupparono immediatamente. «Non vi agitate, vi supplico, carissima signora», disse Mr. Tupman teneramente. «La mia ferita è assai leggera, vi assicuro». «Allora non siete morto?» proferì l'isterica signora. «Oh, ditemi che non siete morto!» «Non fare la sciocca, Rachel», intervenne Mr. Waldorf con tono un po' più rude di quanto non comportasse il carattere poetico della scena. «Cosa diavolo significa che lui ti dica di non essere morto?» «No, no, non lo sono», disse Mr. Tupman. «Non ho bisogno di altra assistenza che la vostra. Fatemi appoggiare al vostro braccio». E aggiunse in un sospiro: «Ah, Miss Rachel!» L'esagitata femmina si fece avanti e gli offrì il braccio. Tutti entrarono in sala. Mr. Tracy Tupman premette dolcemente la mano di lei con le labbra e si lasciò cadere sul sofà. «Siete debole?» chiese ansiosamente Rachel. «No», disse Mr. Tupman, «non è niente. Starò subito meglio». Chiuse gli occhi. «Dorme», mormorò la zia Zittella. Gli organi della vista del ferito erano rimasti chiusi 20 secondi all'incirca. «Caro, caro Mr. Tupman!» Mr. Tupman balzò su. «Oh, ripetete quelle parole!» esclamò. La signora ebbe un sussulto. «Non le avrete udite, spero», disse tutta vergognosa. «Oh sì, invece», rispose Mr. Tupman. «Ditele ancora, se volete che guarisca. Ditele ancora». «Zitto», disse lei, «mio fratello». Mr. Tracy Tupman riprese la sua posizione precedente e Mr. Wardle, accompagnato da un chirurgo, entrò nella stanza. Il braccio fu esaminato, la ferita medicata e giudicata assai leggera, e tutti, avendo così soddisfatto le proprie esigenze morali, procedettero a soddisfare il proprio appetito con un volto su cui si leggeva la riacquistata allegria. Solo Mr. Pickwick era rimasto silenzioso e chiuso in se stesso. Dubbio e sfiducia aleggiavano sul suo viso. La sua fede per Mr. Winkle era stata incrinata, gravemente incrinata, dagli avvenimenti della mattina. Fu stabilito pertanto che Mr. Tupman sarebbe rimasto a casa affidato alle donne e che gli altri ospiti sotto la guida di Mr. Wardle si sarebbero portati sul campo di cricket dove stava per svolgersi quella prova di destrezza che aveva svegliato tutta Muggleton dal suo torpore e iniettato a Dingley Dell una febbrile eccitazione. Thank you. Capitolo ottavo, nel quale si dimostra inconfutabilmente la tesi che il corso del vero amore non è una ferrovia. Il quieto ritiro di Dingley Dell, la presenza di tante persone del sesso gentile e la premura e l'ansietà che queste dimostravano verso di lui erano tutti elementi favorevoli alla crescita e allo sviluppo di quei teneri sentimenti che la natura aveva radicato profondamente nel cuore di Tracy Tupman e che ora sembravano sul punto di convergere in un unico amabile oggetto. Le ragazze erano graziose, i loro modi avvincenti, la loro indole irreprensibile, ma nell'aspetto della zia Zittella c'era una dignità, un certo qual non mi toccare nell'incedere, una maestà nell'occhio che alla loro età le ragazze non potevano nemmeno sognarsi e che la rendevano diversa da qualsiasi altra donna su cui Mr. Tupman avesse posato lo sguardo. Del resto, che ci fosse un'affinità nella loro natura, qualcosa di congeniale nelle loro anime, una corrente misteriosa fra i loro cuori, era ormai chiaro. Il primo nome che era salito alle labbra di Mr. Tupman mentre giaceva ferito sull'erba era stato quello di lei, e il riso isterico di lei era stato il primo suono a colpire il suo orecchio mentre lo stavano riportando a casa. Ma lei si era tanto emozionata per naturale effetto di una tenera sensibilità femminile, ugualmente incontenibile in ogni occasione, operazione di un sentimento più caldo e appassionato che solo lui, fra tutti gli uomini viventi, poteva risvegliare? Questi erano i dubbi che gli attanagliavano il cervello mentre giaceva steso sul divano. Questi erano i dubbi che decise di chiarire al più presto e per sempre. Era sera. Isabel ed Emily erano andate a spasso con Mr. Trundle. La vecchia signora sorda si era addormentata in poltrona. Il ronfare del ragazzo grasso giungeva con un suono basso e monotono dalla lontana cucina. Le floride fantesche stavano passando il tempo sulla porta di servizio, godendo la dolcezza dell'ora e le delizie di qualche giocherello ancora agli inizi con certi esuberanti mammalucchi addetti alla fattoria. E la nostra coppia era rimasta sola, dimenticata da tutti, di tutti dimentica, sognando solo se stessa. Erano là, seduti, insomma come un paio di guanti di capretto accuratamente rivoltati e avvolti l'uno nell'altro. «Mi ero scordata dei fiori», disse la zia Zittella. «Innaffiateli ora», disse Mr. Tupman con accento persuasivo. «Prendereste freddo uscendo di sera?» insisté la zia Zittella affettuosamente. «No, no», disse Mr. Tupman alzandosi, «mi farà bene, vi accompagno». La signora si fermò ad aggiustare la fasciatura che reggeva il braccio sinistro dell'innamorato e prendendogli il braccio destro lo condusse in giardino. C'era, all'estremità più lontana di esso, un chioschetto di caprifoglio, gelsomino e piante rampicanti. Uno di quei dolci ritiri che uomini comprensivi preparano per la comodità dei ragni. La zia Zittella prese un grande annaffiatoio posato in un angolo e stava per uscire allo scoperto. Mr. Tupman la trattenne e la tirò su un sedile vicino a sé. «Signorina Wardle», disse, «voi siete un angelo». «Mr. Tupman!» esclamò Rachel diventando rossa come l'annaffiatoio. «Io poi», disse il pickwickiano, «lo so anche troppo bene». «Tutte le donne sono angeli, si dice», mormorò scherzosamente la signora. «Se è così, voi che cosa siete? O a che cosa posso adeguatamente paragonarvi?» rispose Mr. Tupman. «Si vide mai donna che vi rassomigliasse? Posso io sperare di trovare altrove un così raro connubio di virtù e di bellezza? Dove mai si potrebbe cercare? Ah!» Qui Mr. Tupman si interruppe e premette la mano che stringeva la maniglia del fortunato annaffiatoio. La signora girò la testa dall'altra parte. «Gli uomini sono così bugiardi!» sospirò debolmente. È vero», proruppe Mr. Tupman, «ma non tu. C'è almeno un uomo che non potrà cambiare mai, uno che sarebbe felice di dedicare tutta la sua vita alla vostra felicità, che vive solo nei vostri occhi, che respira solo nei vostri sorrisi, che solo per voi sopporta il pesante fardello della vita. Se un uomo simile si potesse trovare», disse la signora. «Ma si può trovare», disse l'ardente Mr. Tupman interrompendola. «Anzi, è trovato, è qui, signorina Wardle». E prima che la gentildonna potesse capire le sue intenzioni, Mr. Tupman era caduto in ginocchio ai suoi piedi. «Mr. Tupman, alzatevi!» disse Rachel. «Non sia mai!» fu la fiera risposta. «Ah, Rachel!» E gli afferrò l'inerte mano di lei portandola alle labbra, mentre l'annaffiatoio cadeva per terra. «Ah, Rachel! Ditemi che mi amate!» «Mr. Tupman!» disse la zia Zittella, sempre con la testa girata dall'altra parte. «Non riesco quasi a parlare, ma non mi siete del tutto indifferente?» Non appena ebbe ricevuto questa confessione, Mr. Tupman procedette senz'altro a ciò che le sue appassionate emozioni lo spingevano a fare e che, per quanto ne sappiamo noi, ma abbiamo pochissima pratica di queste faccende, tutti fanno in simili occasioni. Balzò in piedi e, gettando le braccia al collo della Zittella, le impresse sulle labbra numerosi baci che, dopo un doveroso accenno di lotta e resistenza, ella ricevette assai di buon grado. E non si sa quanti ancora Mr. Tupman ne avrebbe elargiti se la signora, con un balzo molto sincero, non avesse esclamato spaventatissima: «Mr. Tupman, siamo osservati, siamo scoperti!» Mr. Tupman si guardò intorno. C'era il ragazzo grasso affatto immobile. con i grossi occhi tondi fissi verso l'interno del chioschetto, ma col volto così inespressivo che il più esperto osservatore non avrebbe potuto leggervi il più pallido segno di stupore, curiosità o altra passione capace di agitare il petto dell'uomo. Mr. Tupman guardava il ragazzo grasso, e il ragazzo grasso lo fissava. E più Mr. Tupman osservava l'assoluta mancanza di espressione sul volto, più si andava convincendo che quello o non sapeva o non capiva nulla di ciò che era accaduto. Sotto questa impressione, egli disse risolutamente: «Cosa fate qui voi?» «La cena è servita, signore», fu la pronta risposta. «Siete arrivato adesso?» chiese Mr. Tupman con uno sguardo penetrante. «Adesso», rispose il ragazzo grasso. Mr. Tupman lo fissò di nuovo, molto severamente, ma l'altro non batté ciglio e il suo viso non fece una piega. Mr. Tupman prese il braccio della zittella e si avviò verso casa. Dietro seguiva il ragazzo grasso. «Non ha capito niente di quello che è successo», sussurrò. «Niente», disse la zia zittella. Ci fu un suono alle loro spalle, come di risa mal represse. Mr. Tupman si voltò di scatto. No, non poteva essere stato il ragazzo grasso. Non c'era sulla sua faccia nemmeno un barlume di allegria. Nessun'altra espressione, tranne quella della voracità. «Doveva dormire come un sasso», sussurrò a Mr. Tupman. «Non ne ho il minimo dubbio», rispose la zia zittella. Risero entrambi di cuore. Num jogo de vida e de morte, as brancas e as pretas sobre o tabuleiro. Ali não há golpes de sorte, se pensam jogadas de estilo certeiro. O quadro é um mar quadriculado, sem ondas parado, porém de marés. Às vezes um passo mal dado, um lance apressado resulta em revés. Os reis, as rainhas e os bispos dominam a cena com seu poderio. Da torre se avista ao tablado, peões trabalhando por horas a fio. O meu coração anda aos saltos, parece um cavalo no seu movimento. Selvagem e até traiçoeiro, vai sem cavaleiro, tabuleiro adentro. Parceiros duelam paciência, por vezes se estranham o amor e a ciência. As pedras ali não têm limo, e mudam de rumo por conveniência. Ou por não acharem saída, não rolam, se deitam no fim da partida. Num jogo de vida e de morte, as brancas e as pretas sobre o tabuleiro. Ali não há golpes de sorte, se pensam jogadas de estilo certeiro. O quadro é um mar quadriculado, sem ondas parado, porém de marés. Às vezes um passo mal dado, um lance apressado resulta em revés. Os reis, as rainhas e os bispos dominam a cena com seu poderio. Da torre se avista ao tablado, peões trabalhando por horas a fio. O meu coração anda aos saltos, parece um cavalo no seu movimento. Selvagem e até traiçoeiro, vai sem cavaleiro, tabuleiro adentro. Parceiros duelam paciência, por vezes se estranham o amor e a ciência. As pedras ali não têm limo, e mudam de rumo por conveniência. Ou por não acharem saída, não rolam, se deitam no fim da partida. Mr. Tupman aveva torto. Il ragazzo grasso una volta tanto non aveva dormito. Era stato sveglio, ben sveglio, per tutta la scena che si era svolta. La cena trascorse senza nemmeno il tentativo di intavolare una conversazione generale. La vecchia signora era andata a letto. Isabel Waldle si dedicava esclusivamente a Mr. Trundle. Le attenzioni della zittella erano riservate a Mr. Tupman e i pensieri di Emily sembravano occupati da qualche oggetto lontano. Forse volavano all'assente Snodgrass. Le 11, le 12. L'una era sonata e gli uomini non erano arrivati. Ogni volto esprimeva lo sgomento. Che fossero caduti in un agguato di rapinatori. Bisognava mandare gente fornita di lanterne in ogni direzione da cui potevano venire. O era meglio... Ascoltate! Sì, sono loro! Che cosa li avrà fatti tardare tanto? E c'è anche una voce nuova. Chi sarà? Si precipitarono in cucina, dove quei traditori si erano rifugiati, e là ebbero subito un'idea non tanto vaga sulla vera natura della situazione. Mr. Pickwick, con le mani in tasca e il cappello completamente sbandato sull'occhio sinistro, si era abbandonato contro la credenza, dondolando la testa ed emettendo una successione continua dei sorrisi più blandi e più benevoli, senza essere mosso da alcuna causa apparente o pretesto qualsiasi. Il vecchio Mr. Wardle, con volto congestionato, stava stringendo la mano di un signore forestiero, borbottando proteste di eterna amicizia. Mr. Winkle, appoggiato all'orologio a pendolo, ciangottava invocazioni di morte sul capo di ogni membro della famiglia che gli accennasse all'opportunità di andare a letto. E Mr. Snodgrass si era lasciato cadere su una sedia con l'espressione del più squallido e disperato abbattimento che mente umana possa concepire, dipinta in ogni tratto del suo volto espressivo. «È successo qualcosa?» chiesero le signore. «Successo nulla!» rispose Mr. Pickwick. «Noi stiamo benissimo, dico Wardle, stiamo benissimo, no? Lo credo bene!» disse il gioviale padrone di casa. «Mie care, questo è il mio amico Mr. Jingle, amico di Mr. Pickwick. Questo Mr. Jingle, incontrato per caso, una piccola visita!» «È successo qualcosa a Mr. Snodgrass, signore?» chiese Emily con grande ansietà. «Successo nulla, signora!» rispose il forestiero. «Pranzo in onore del cricket, riunione memorabile, cori straordinari, vecchio porto, chiaretto buonissimo, eccellente, vino, signora, vino!» «Non è stato il vino», mormorò Mr. Snodgrass con voce rotta. «È stato il salmone». In un modo o nell'altro non è mai stato il vino in questi casi. «Ma non sarebbe meglio che andassero a letto, signora?» disse Emma. «Due garzoni potrebbero trasportare i signori al piano di sopra». «Non voglio andare a letto», dichiarò Mr. Winkle fermamente. «Nessun garzone vivente mi trasporterà», disse Mr. Pickwick baldanzoso e ricominciò a sorridere come prima. «Evviva!» rantolò debolmente Mr. Winkle. «Evviva!» gli rispose Mr. Pickwick, togliendosi il cappello e sbattendolo per terra e gettando dissennatamente i suoi occhiali in mezzo alla cucina, e salutò le spiritose gesta con un riso sgangherato. «Beviamoci un'altra bottiglia!» esclamò Mr. Winkle, incominciando in chiave di basso e finendo in falsetto. La testa gli cadde in avanti e borbottando la sua decisione incrollabile di non andare a letto e un sanguinario rimpianto per non aver fatto fuori il vecchio Tupman quella mattina, precipitò in un sonno profondo e in queste condizioni fu portato in camera sua da due giovani giganti sotto la sorveglianza personale del ragazzo grasso, alla cui rassicurante protezione Mr. Snodgrass affidò poco più tardi la propria persona. Mr. Pickwick accettò il braccio che Mr. Tupman gli porgeva e scomparve quietamente, sorridendo più che mai. E Mr. Wardle, dopo aver salutato tutta la famiglia, così affettuosamente come se stesse per salire sul patibolo, concesse a Mr. Trundle l'onore di portarlo di sopra e si ritirò con uno sforzo inutilissimo di assumere un aspetto suggestivo di solenne dignità. Thank you.